Il cavallo del capitano. C'era una volta un cavallo che aveva le gambe molto molto corte. Si chiamava Dick. Nonostante ciò era un animale simpatico, ma gli altri cavalli ridevano di lui e una volta perfino un vermiciattolo, che strisciava da quelle parti, rise di lui chiamandolo gamba corta. E un'occhetta nera che nuotava nello stagno starnazzò: poverino, ha le zampe un po' corte, no? Dick era molto triste. Come mi piacerebbe avere delle belle zampe lunghe, sospirava. A che serve un cavallo con le gambe corte? Mentre trottava piangendo sconsolato, vide un soldato seduto sotto un albero che piangeva anche lui. Le lacrime gli bagnavano tutti i baffi. Poverino, cosa ti è successo? Chiese Dick trotterellandogli vicino. Il re ha detto che non potrò avere la marmellata per merenda, singhiozzò forte il soldato. Niente marmellata per merenda? Si impietosì Dick. Osservò meglio il soldato e vide che portava degli stivaloni con speroni e un elmetto tutto ammaccato. Enrico, così si chiamava il soldato, continuò a singhiozzare. No, ecco, il re ha detto che siccome ho ammaccato di nuovo l'elmo, non mi avrebbe più permesso di mangiare marmellata merenda. Ogni volta che passo a cavallo sotto l'arco del castello, batto la testa sul soffitto e ammacco l'elmo. Ma non è colpa mia! Il mio cavallo ha le gambe così lunghe che io divento troppo alto. Oh, potessi avere un cavallo dalle belle gambe corte come... come le tue, disse Enrico guardando le zampe di Dick. Non vorresti diventare il mio cavallo? Sì che voglio, rispose felice Dick e si scambiarono un grande abbraccio. Enrico portò Dick al castello e gli dette del fieno. Il giorno dopo il re ordinò ai suoi trombettieri di dar fiato alle trombe. Tararà, tararà! E tutti i soldati del re cavalcarono fuori dal castello allineandosi in attesa dell'uscita del re. Quando il re uscì e vide che tutti, eccetto Enrico, avevano un'ammaccatura sull'elmo, diventò furioso. Ma prima chiese a Enrico: come mai non c'è nessuna ammaccatura sul tuo elmo oggi? Perché, vostra maestà, io adesso ho un cavallo dalle graziose zampette corte che si chiama Dick, rispose Enrico. Oh, è così? Sì, belle corte davvero. Poi si rivolse agli altri soldati. Siete dei cattivacci ad ammaccare così i vostri elmi. A voi non toccherà nemmeno un cucchiaino di marmellata per merenda. E da qui in avanti cavalcherete solo cavalli dalle graziose zampe corte come quelle di Dick. Poi promosse Enrico al grado di capitano della guardia e a Dick regalò una fascia con il suo nome ricamato a grandi lettere. Dick, ora, era un cavallo molto felice.